saranno non meno di 13-14 stanze, tutte antiche, proprio con i solai disegnati, sembrano disegni fatti da pittori famosi. Se è ancora di loro questo appartamento non lo so, io so solamente che lei era la proprietaria, la figlia del proprietario, cioè, però ci viveva la madre, ci viveva lì, e adesso non lo so se c'è ancora, la madre penso che sia morta anche lì, il padre è morto sicuro, ma la madre non lo so. Ma anche così, tu dici, nella zona di Via Pascoli, non so esattamente dove, c'era uno stabile, era tutta roba loro. Tutto l'angolo di Via Nurra, sino la legatoria che c'era, che oggi c'è uno che vende salumi, panini, eccetera, e poi c'era il bar, e poi ancora avanti c'è quello della pittura, eccetera, insomma tutto roba loro era, tutto l'angolo anche di Via Nurra. E ancora oggi è di loro quello, ma diciamo che ormai sta cadendo a pezzi tutto quanto lì. No, ma adesso ne sono tanti personaggi stati, diciamo, abbastanza conosciuti, questi qui erano più famosi. Poi io non ho conosciuto le persone, non qua a Sassari, non so se aveva Francesco Mura dell'Argentina, era quello che raccontava le balle spaventose, ma sei dominato? No, non so di che stai parlando, no, non lo so. Sì, il Cosedo aveva iniziato, avevano un'attività di genere alimentari, avevano lì in quei magazzini, no? Il padre aveva queste negozie, ma parlo di tantissimi anni, ma da tanti anni, e per tanti anni hanno tenuto questo negozio, hanno tenuto. Poi lui il padre di Gesuino, ad esempio, il padre di Giovanni, eccetera, andava in giro per il paese a chiedere dell'elemosina. Lui era un benestante, non dico un ricone, però un benestante senz'altro, perché aveva fatto soldi allora a quel tempo, però poi chissà com'è andato. E ancora oggi un figlio, ripeto, ha questo capannone dove vende tutto l'arredamento per i ristoranti. No, non lo so. Avanti a tu. Una volta anche a me, Gesuino era allucinante, era. Cioè, andava in discoteca, la ciappava a bruttare, non trovava ogni roba la ciappava, si metteva a ballare. Cioè, una volta mi pare che è andato pure da Mike Buongiorno, una cosa del genere, forse sì. E ha vinto pure, è andata anche alla corrida di Corrado. Cioè, Macu, però... Lì sia, cioè il capo alla fine non era così scemo, se no quando si butta accanto a Rosero c'è il capo del popolo, mamma mia. Guarda, se volete vi racconto un paio di storie di Gesuino, vi fate due risate. Quando avevo fatto una festa lì Punti, c'avevamo un capannone, avevo organizzato una festa e l'avevo invitato, siccome lui era sempre qui a Ghina, cosa del genere, lui bazzicava in Piazza d'Italia, ha detto Gesuino, lui stava invitando gente, amici, per cercare di portarli giù, c'era un po' di gente, e c'era lui vicino ascoltando, ha fatto Gesuino, ci vuoi venire alla festa? Sì, già, beh, però mi raccomando, se vieni, mi raccomando con le ragazze, stai tranquillo, perché cacchio, ci sono lamentate che tu fai sempre il coso, il mania. No, già vengo, cacchio, lo sai che è venuto veramente, ai Punti, è sceso col tram, siccome rimane un po' all'intorno dove ci sono il campo di calcio, di lì c'è il capannone, è venuto con l'ombrello lui, era una giornata, stava appena più avvicinando, è venuto, e tu lo vedevi, alla festa è venuto, infatti noi siamo rimasti a bocca aperta, e poi faceva le poesie, noi, infatti qualcuno me la ricordo pure a memoria, gli dico, mio cugino, che lo conosce da quando è nato, perché lui è nato di lì vicino, mio cugino acquisito, e lui ha un libricino fatto da lui, proprio stampato, e se l'aveva fatto autografare, allora mi ha detto, aveva pagato 10.000 lire, perché gli ha detto, io te lo prendo, però me lo devi autografare, l'aveva pagato 10.000 lire, dice, saranno 30 pagine di coso, dice, le canzoni, c'è quella di coso che parla delle città della Sardegna, si capisce, ma le poesie, uno che la legge dice, ma cosa è scritto, non si comprende nulla, è una cosa senza senso. Ma deve portare per farmi, mi faccio le fotocopie, perché mi ha detto guarda Roberto lo porto e tu se riesci a capirne, qualcosa, perché le poesie non hanno senso, è una cosa senza senso, tu scrivi parole senza senso, mentre quella della Sardegna, la canzone Cagliari a sud capitale, cazzo il sardo col suo monte, tutto di rima e così, fate così, si capisce, ma le poesie le altre dite zero. Ok, vai giù. Sì, Gesuino era uno di questi, infatti, che inventava così le parole sul momento e li metteva in poesia, le metteva, ma poi di poesia non voleva niente perché diceva solo cretinate e basta. Sì, sì, ma certo, lo so, purtroppo è così. Altri tempi, però devo dire erano persone brave, nonostante, però era, purtroppo era una malattia genetica e tutti quanti i fratelli, quasi tutti, sono arrivati a fare la stessa fine con lo stesso problema, cioè mentalmente non erano più sani, diciamo, dai. Eccetto uno, quello il commerciante, che quello già è tranquillo, grazie a Dio, ed è ancora vivo, non c'è problema. Sì, però, ripeto, la gente che stava bene allora, in quegli anni, quando i soldi erano pochini per tutti, loro ce li avevano, altro che se ce l'avevano. Alla grande, vabbè, dai. Io cosa dire? A proposito, parlando adesso invece di altre persone serie che conosciamo, che abbiamo conosciuto, eccetera, dammi notizie invece di Vicenzo, è sempre tranquillo, sì, perché io l'ultima volta che l'avevo visto mi aveva detto che non stava molto bene, o bene. Ma mio zio stai parlando? Sì, parlando di persone serie, non di tagliente, vuole il gabbo, Vicenzo, sì. Allora, di zio Vicenzo, io sono un po' che non lo sento, non stava bene, aveva grossi problemi di respirazione lui, che se l'ha portati purtroppo per quel tipo di lavoro lui, prima mascherine non se ne usava niente, era venuto un annetto, più di un annetto fa in officina ed era proprio, guarda, non riusciva manca a fare due bassi. Col figlio ci siamo sentiti l'altro giorno con Mario, però non vanno d'accordo col padre, hanno avuto dei problemi come col fratello, che io non sapevo, infatti non ho approfondito, mi sono stato zitto perché gli stavo per dire, beh, tuo padre come sta, eccetera, eccetera. Ho chiesto prima del fratello, beh, con Torres, come Torres c'ha il lavoro dove ce l'aveva il padre, ha tenuto di ragazzi, si sono briati malamente, mentre lui il lavoro ce l'ha giù a cosa, a Santa Maria, Mario. E no, quando mi ha parlato di Torres mi ha risposto, no, la Sabilli, mamma mia, mi sono bloccato, gli stavo per chiedere al padre, ho detto, no, magari ci rimane male, ho preferito stare zitto. Però sinceramente non è che abbiamo questi contatti, però non so che cosa come sia effettivamente. Appunto, no, volevo sapere solo notizie di lui, perché io l'ultima volta che mi sono visto con lui ci siamo trovati lì di fronte al bar Torino, ex bar Torino, dai, lì in via Brigata Sassari, e poi ci siamo seduti un attimo, abbiamo scambiato quattro chiacchiere in una panchina, eravamo in una giornata bella d'estate e abbiamo discusso un po' del più e del meno. Sì, beh, con Vicenzo io mi ricordo quando eravamo ragazzi, giovani, ma proprio giovani veramente, abbiamo anche lavorato insieme, perché lui per un po' di tempo, io vabbè ho imparato lì da frate di caso, lui però c'è stato, ma pochissimo però, diciamo che ha fatto qualche mese, non di più, uno o due mesi, ma io avevo continuato sempre nella stessa ditta lì con frate di caso, avevo imparato lì, ma poi lui aveva cambiato lavoro, cioè quando aveva cambiato lavoro, il lavoro era sempre quello, ma aveva cambiato posto di lavoro e non l'avevo più sentito, e mi aveva raccontato appunto che aveva questo problema di respirazione, eccetera eccetera, non ne sei più. Ma allora il figlio c'era sempre la falegnameria, quello non sa niente, o l'aveva chiuso anche lui? No, tutti e due c'erano la falegnameria, uno, il grande c'era dove ce l'aveva il bambo, già sai dove stiamo dicendo, il figlio c'era giù a Santa Maria, in quell'ex mercato fortofrutti, in quella zona lì ce l'ha, però non devono essere amare, adesso è successo qualcosa per il discorso di separazione, di dividere le attività, eccetera, per quanto ne so io, almeno per quanto mi immagino, perché diciamo mai che andavano d'accordissimo neanche prima, però poi deve essere finito tutto, giocato lo cerrò. No, di zio Vincenzo mi ricordo una vita lavorando, sempre attento al lavoro, e infatti ne aveva preso uno sciocco quando si aveva tagliato il dito, quelle due dita con lavoro. Infatti era uno dei pochissimi che dicevo mica non si è arruinato. Mi proprio alla fine, come un imbecille, tank, si è nato un caso di diti. Purtroppo sono incidenti che capitano e tante persone hanno avuto quel problema in quel mestiere lì, un mestiere maledetto che basta uno nulla proprio per avere un incidente del genere, purtroppo è così. E mi dispiace di Vicenza perché ci conosciamo la vita, ci conosciamo, no? Una gran persona, è una persona educatissima, brava soprattutto, e ci conosciamo noi 60 anni come minimo. E mi dispiace veramente che sia male, io pensavo magari che si fosse depresso, ma tu mi stai confermando che a quanto sembra il problema continua. Speriamo bene, non so cosa dire, se per caso dovessi vederlo salutalo da parte mia, o Robè, se ti capita di sentirlo o qualcosa del genere, ok? Io ripeto, non l'ho più visto da un paio d'anni almeno. No, credo che stia uscendo poco pure, non lo so, io mi auguro che non gli sia successo qualcosa di importante, perché non ho avuto il coraggio, ti ripeto, di dirlo al figlio, perché magari mi poteva dire no babbo non c'è più, perché io guardo sempre il giornale, però molte volte tipo non lo puoi vedere, ma io spero sempre di non vedere gente che conosco, tutti i giorni lo guardo, però molte volte mi capita dalle persone che cazzo pure quello lì, e mi dispiace un po' da morire. Dai, cambiamo argomento che se no mi rattristo. Avanti Anto. Non so esattamente di chi sto parlando, però forse un po' capito, va. Già era conosciuto, diciamo, nella zona sua, l'attività sua non è che ce ne sono molti, per cui passando in quella stradetta di lì, a Puglia, che ci sei passato migliaia di volte tu. Sì, che ci sono passato. A Puglia che ci sei passato, vicino alla università, cos'è? Via Maddalena è quella lì, Giulio? Sì, via Maddaleneta, sì, una cosa del genere. Sì, sì, la piazzetta, dai, dove c'è la fontana, c'è. Sì, sì, sì, vabbè, purtroppo è così. Sì, mi dispiace perché avrei avuto piacere di rincontrarli e scambiare quattro chiacchiere, perché ripeto, siamo amici da sempre, abbiamo avuto sempre buonissimi rapporti, per cui insomma a me le persone brave, le persone serie mi piacciono, la verità, e dunque io sono sensibile anche alla vita di queste persone così. Io ripeto, sono sempre andato d'accordo con tutti, però ci sono persone particolari che tengo in mente per il semplice fatto che le considero persone come si deve, persone serie, sia nel lavoro che nella vita quotidiana di sempre, e per come li ho conosciuti. Va bene, dai, avanti Antù. Come si chiamava questo tipo? Non lo sapete dire. No, già è vivo il vegeto, grazie a Dio, è una persona, un amico che conosco da anni, e per cui è di quello che volevo sapere notizie, perché so che aveva un problema di respirazione, tutto lì, niente di più, Anto. Non ne facciamo di cognomi, abbiamo fatto il nome, ma di nomi così ce ne esistono a migliaia. Avanti Robè. Vabbè, comunque cambia un po' il nome, l'attività dove abbiamo il nome, ma non diciamo altri particolari. E lo conosci a tutti, sono loro. Quello che c'era a falegnameria in via Cataluttino, pintore, tu. Natalino, che aspettazione, ce lo conosco, da sempre, anzi ti dirò di più. Prima di incominciare, ripeto, ascolta, questa è un po' la mia storia, prima di incominciare ad aprire io in via Nocevi, per 3 mesi ho lavorato da lui, non da lui sotto le dipendenze di lui, no, nella maniera più assoluta. Allora, ti spiego, io ho iniziato prima in via Isabelline, avevo una falegnameria lì in via Isabelline. Però ce l'avevo in società, la società non mi andava e dopo un annetto l'ho abbandonata e mi sono messo in gruppo, nonostante che avevo comprato tutto io, macchinari tutto io, praticamente l'attività l'avevo avviata io, ho lasciato tutto a chi poi ha voluto continuare, non hanno continuato per molto tempo, però io me ne sono andato. nel frattempo mi sono cercato il magazzino e ho tardato un po' a trovare questo magazzino, perché? Perché dove poi sono finito era in costruzione del palazzo, no? E allora non era ancora pronto questo magazzino, e a me mi interessava lì in quella zona, mi interessava per vari motivi. Primo, perché ero vicino a casa dove abitavo allora, che allora non ero ancora sposato, eccetera, eccetera. E poi anche perché mi piaceva la zona silenziosa dove si poteva aprire una falegnameria, perché secondo dove capiti non era possibile lavorare, quello che ti sentiva il rumore, ti veniva a rompere le scatole per il rumore, lì invece ho ritenuto che era una zona tranquilla dove nessuno mi avrebbe mai detto niente, e infatti così è stato. Però nel frattempo che io stavo aspettando che terminassero questo locale, ho chiesto a Natalino, perché avevo del lavoro da fare, se me lo faceva fare nella falegnameria sua, che allora aveva due magazzini, cioè dov'è adesso? Poi il portone, poi un altro magazzino a fianco, e ne aveva due, e in uno c'ero io e in uno c'era lui, e ne pagavo 30.000 lire allora c'era la lira, al mese di affitto per farmi lavorare lì. E io mi sono fatto i lavori, che nel frattempo mi stavano anche arrivando le macchine. Dopo 3 mesi circa ho ricevuto le macchine, e allo stesso tempo hanno finito il magazzino e l'ho preso in affitto. Allora lì ho lasciato, ho ringraziato Natalino, gli ho dato i soldi che gli dovevo dare, perché gli avevo messo in mente, e via. Ma siamo rimasti in buonissimi rapporti, ma ogni tanto io ci vado e lo saluto. Adesso magari sono un annetto senza andarci, perché col fatto della pandemia non ci sono più passato, e adesso non lo so. Però lui continua a lavorare, avanti, vabbè. E quello infatti ti volevo dire, quell'uomo c'ha più di 80 anni, io a quello gli avevo venduto la macchina, insomma era grande amico di mio padre, anche se adesso non ci vedo più, ma sta ancora lavorando, e gli aveva fatto un ingresso, un salutino in legno in casa di mia madre, delle mensole, aveva fatto dei lavori lui, tanti anni fa eravamo ragazzini, gli avevo venduto la macchina, avevo allora la Ritmo Targa Oro, la prima macchina proprio personale, che poi non l'abbiamo tenuta perché era troppo brillante, era un ragazzotto di 19 anni, era un po' pericoloso per l'epoca, e babbo ha detto no, questa macchina non va bene per voi, fate consuma va un bene. E l'ho visto lavorare, ma quello c'ha oltre 80 anni quell'uomo. 80, ne ha più di 85 sicuramente, e forse ne avrà anche 87-88. A voglia, Natalino, e vabbè, sta lavorando, ma va lì per so. Tanto abita su, in quella stessa palazzina, abita su al tuo piano, per cui non. Per lui è un punto d'appoggio praticamente. Ci va uno e subito vanno a prendersi il cicchetto insieme all'amico, magari quando uno arriva lì, ma cosa fa? Fa qualche cosettina così, qualcuno che arriva lì, me lo tagli questo pezzo. Allora te lo taglio, ma dammi 10 euro per dire, va avanti così, ma non perché ormai non è che bisogna lavorare, è pensionato tranquillamente, no? Però per lui quello è un punto d'appoggio e ci va. Intanto si fa magari qualche cassapanca, si fa qualche piattella, queste cose così, no? Mobili in stile sardo, e quando capita se la vende anche e fa qualche soldino, tutto lì, robe. Ok, Anto, vai, già lo conosci anche tu, Anto, naturalmente. L'ho visto tante volte. Dopo io su WhatsApp ti dico, invece conosci un falegname tu, ma secondo me lo conosci pure. Che lui era di origine di Castelsardo, era. Cioè è mezzo parenti a noi, capito? A Giulio sta dicendo. Secondo me non conosci chi è. Adesso è morto, poi c'era il figlio che aveva problemi, che li fa chiamare, mi pare. Non so se era ancora aperta la falegnameria. Che lì, adesso non mi ricordo dove era. Bene. È mezzo parente nostro. Faceva anche lavori grossi all'epoca. chi era? Come si chiama? Forse Ninuccio, forse si chiama, adesso non me lo ricordo più il nome, ma dove ce l'aveva la falegnameria? Lì all'altezza di Via Lomberto, via Torres, dietro di quella stradina che c'è parallela, che da Via Torres poi si collega con Via Lomberto, lì ce l'aveva, di Castelsardo era lui, sì. No, chi si siete di accordo? A Maciotta? No, non è lui, no. Cioè era in queste zone, era tra Sassa di Vecchio, era. Salvatore si chiamava, mi sembra. Era uno zio di mio padre, era. Salvatore, io di Salvatore, fra gli anni ho conosciuto Salvatore Sanna, oppure l'altro Salvatore che aveva la bottega via Santa Elisabetta, lì all'interno di via Santa Elisabetta, non so come si chiama quella via di Sassa di Vecchio, sarà forse quello, un tipo alto, abbastanza alto. Comunque ce l'aveva lì, non me lo ricordo molto bene, è morto da un po' di anni. Salvatore Sanna, se è quello che sto pensando io, si chiamava Salvatore Sanna. Giusto? No. Sì, dimmi, Arturo. E poi nulla era. No, non ho capito, Antu, dimmi, un attimo, Robe. Dimmi, Antu, cosa stavi dicendo? Capula. Ah, no, Capula, Capula, stai parlando di Capula. Sì, che l'ho conosciuto Capula, sì. Ma Capula mi sembra che poi l'ha finito, adesso non me lo ricordo bene, in questo momento mi sfugge un po' la memoria, ma mi sembra che ha avuto anche la falegnameria all'Ovulento, nella salita dell'Ovulento, lì in una casa di campagna, eccetera, se ricordo bene, non so se è quello, vai a tu. Sì, capo, c'è una casa lì a San Giovanni, di Marasotier, dopo poi c'era avuto la casa lì, praticamente la moglie era la zia di mio padre, era. Capito? Ma dovrebbe essere morta anche lei. Ho capito, sì, Capula già l'ho conosciuto io, sì, però adesso non mi ricordo esattamente dove avesse la falegnameria, ma mi sembra che ce l'avesse lì. Poi forse mi sto anche confondendo, forse poi si era trasferito anche a Porto Torres come falegnameria, adesso non me lo ricordo, no, in questo momento non mi viene bene in mente, avanti, vabbè. E poi lo conosci, anziano, parliamo di falegnami anziani, lo so, Marella, è attraverso a Torres, lo conosci a Marella, Franco Marella? Franco Marella chi? Ma il tappezziere, stai parlando del tappezziere? Il tappezziere, fratello di Giovanni, tutta la famiglia dei tappezzieri, a fianco a lui, un po' più avanti, c'è un falegname, lo conosci quello? Maciotta, quello che stava dicendo, quello che ho detto poco anzi, sì, dietro lì, via Torres, che poi a spalle di Marella c'era Maciotta, sì, Maciotta di Castelsardo ha lavorato per anni con me da frate di caso, era anche lui un falegname, non so se c'è ancora, ma suppongo che sarà in pensione, senz'altro. Non lo so, stai parlando di quello, sì, di questa Marella. A fianco a Marella, proprio, sarà a 30 metri prima di arrivare a cos'è, via Torres, dove c'è la Camera del Commercio. Di lì c'è un falegname che è in pensione, però un paio di volte sono andato, siccome Marella, siamo molto amici con il signor Franco, è capitato, te l'ho fatto tagliare io questo pezzo di legno, la dovevo rifinire, dei pezzettini di legno sono andato da lui. È un personaggio, dai, lasciamo perdere, è un po' così, è un po' orso come carattere, vabbè, forse perché a me non mi conosce. E poi un altro che è un po' che non mi è piaciuto molto, quell'altro che c'è in via Catalucchino, lo stesso, andato uno a tagliare un pezzo, cacchio gli ha chiesto, mi pare 8 euro, un taglietto, ma non taglio da niente, normalmente quanto è? La 8 euro le ha chiesto. Sì, ho capito, sì, infatti Maciotta aveva un caratteraccio, in effetti aveva un caratteraccio. Di Castelsardo era sposato qui a Sassari, però diciamo che era lì, sì, lavorava con me, ha lavorato con me da parte di caso, e vabbè, dai, anche lui è un povero diavolo, sì, Maciotta. adesso non mi ricordo però il nome, com'era, se era Nino, boh, non me lo ricordo, no, Uccio Maciotta, sì, adesso mi è venuto in mente, sì, è così. E lavoravamo praticamente lì, di fronte ancora a Merella, un pochino più giù, c'era allora la ditta Frati del Caso, tanti anni fa, no? E dove sono stato io e dove è stato anche Maciotta, questo di Via Torres. E siamo stati lì tutti e due per anni lavorando. Maciotta era uno di quelli, per così dire, così detto in maniera benevola, era un lecchino della ditta, dai, tutto lì. E coso, Ettore, quello che conosciamo noi, per altri motivi, quello lì dove ha imparato giù? Ma penso che sia stato con Clemente, credo, non lo so di preciso. Ettore, lo conosco con la vita lo stesso. Ettore era lì, nella zona dove ero io, qualche anno prima di mettermi io anche lì. Per cui ogni tanto già lo vedevo, quando uscivo, prima della pandemia uscivo, lo vedevo praticamente tutti i giorni, perché lui è un abitué del bar Moccador che c'è all'angolo di via Pascoli con via Grazia Deledda, all'angolo lì. Praticamente lui si siede a tavolino con gli amici e si beve la sua birra giornalmente, no? Sì. Ettore è più grande di me di età, almeno di un 4-5 anni. Via Traversa Torres è quella lì, un divisore. Traversa Torres si chiama proprio, e si chiama proprio quel cognome che hai detto tu, adesso non mi veniva perché lo chiamava con quel cognome signor Franco Merella. Sì, anche mi avete fatto ridere, no? Che ti ho fatto una bella paglia così state sempre. Ma cosa, Ettore, signor Ettore Giulio, era un falegname finito o non era, perché ci sono quei falegnami, io li chiamo finiti, quelli che fanno proprio mobili, cose, o quelli che fanno solo infissi e cose così? Sì, diciamo che sì, che sta a lavorare, dai, tutto lì, bene o male tutti stanno a lavorare. Poi ci sono quelli che sono un pochino superiori, perché magari hanno un altro stile migliore, nel senso che fanno il lavoro più finito, più ben fatto, più ben lucidato, queste cose qua, magari te lo fanno anche dietro il disegno, tutte queste cose qua, dipende, però bene o male tutti lavorano, poi naturalmente il pasticcione c'è sempre, non ci sono dubbi, il pasticcione, soprattutto il disonesto, non è che non ci sia. Sono quelli appunto che magari hanno più lavoro, perché essendo pasticcioni magari ti fanno i prezzi più bassi e la gente lo sa benissimo, quello che va a chiedere la gente, sembra che vada a chiedere un lavoro come si deve, ma in realtà va a chiedere un lavoro che costa meno, e poi allora se costa meno sta tranquillo che gli deve essere meno, non ci sono dubbi, purtroppo è così. No, io ho sempre avuto la mia teoria, no? Io intanto non l'ho fatto mai né il rosinalese né senegalese, io e né il napoletano, il mio prezzo è quello, se quello, se no ciao, arrivederci, non sto lì a perdere tempo, eccetera eccetera. Mi sono fatto un nome abbastanza buono, ho lavorato una vita intera, lavoro ne avevo in quantità, ne passavo anche agli altri, ne passavo tipo ai miei fratelli, tanto per fare un nome a caso, eccetera eccetera. E devo dire che tutti quanti quelli che ho servito la prima volta sono venuti la seconda, la terza e anche la quarta volta quando hanno avuto necessità. Così bisogna lavorare nella vita, sinceri, onesti e senza fare macchi. Avanti, va bene. Io mi allontano un attimo, magari ci sentiamo tra poco, dai, che devo far cosa. Ok, ci sentiamo, proseguite voi, forse qualche minuto, non so se riesco a rientrare dopo, dai. Bella chiacchierata, interessante, dai, oggi niente di tecnica, però abbiamo ripercorso, diciamo, la giovinezza, almeno più giovane, io sono più giovane di te, Antonio è ancora più giovane di me, e tu ci hai raccontato qualche personaggio dei tempi che furono, dai. Io forse dopo ci sono, solo vi saluto adesso, dai, e vediamo un po'. Ciao ciao. Ok, ciao Robe, alle prossime, grazie per la chiacchierata, alle prossime. E magari sono discorsi che alla gente non interessa molto, ma a noi dalla gente non ce ne frega niente, se vuole entrare possiamo anche cambiare discorso, per cui se pure a lui o a qualcuno non gli va bene, faccia come crede, problemi non ne abbiamo. Avanti a tu. Vabbè, comunque con un po' di discorsi diversi ci vogliono qualche volta. potremmo sempre papeggiare, anche perché ci ricorda vecchi tempi, ci ricorda cosa, che anche io certe persone le ho conosciute, cioè, adesso di cosa stiamo parlando, cioè, passo tutto il giorno in giro, passo tutto il giorno che conosco uno e l'altro, cioè, conosce chi tu, conosce chi l'altro. È logico che e poi già quello, l'altro, sì che lo conosco, ah quello tra lo conosco, quello tra lo conosco, perché? Perché so, cioè, passo giorni e giorni e giorni in giro, non sto dentro delle mura chiuso, e quindi riconosco tutti, capito? Sì, a tu, beh certo, poi magari ti chiamano per portare la bombola anche, è chiaro che poi li conosci. Dimmi una cosa, quando di della Taroce tu conosciuto vai aspetta come si chiama, Piero, Piero Idini della Taroce, falegname, conosciuto vai tu? L'ho già sentito. Ho capito. E a Giuseppe Pilas, si è conosciuto là, che tanti anni fa abitava la Taroce stesso. Ma chi, quello che cantava? No, niente, non c'entra niente quello. Un falegname che abitava lì alla Taroce, abitava. Adesso abita lì in Arrocca e Paccada, così si chiama, che via, che strada è quella. No, non mi ricordo come si chiama. Crabulazzi, in quella zona lì abita adesso. Aveva fatto la casa lì in campagna. Si chiama Giuseppe Pilas. Guarda che era un pochino balbuziente. Forse lo ricorda più mio padre che quei tempi un po'. Ce ne sono stati che ho conosciuto anche di persona, e benissimo. No, non mi ricordo di questo, forse l'ha conosciuto più mio padre che io. Giuseppe Pilas non lo conosciamo, è un cantante, ma dell'altro no, non mi ricordo. Quello l'ho conosciuto anch'io, sì, vabbè, quello poveraccio, era morto di incidente stradale all'incrocio della morte, lì all'incrocio di Blattamona, aveva avuto un incidente, vabbè, pazienza, è andata così, è stato sfortunato, e vabbè, cosa dire, boh. Se c'è qualcuno che vuole entrare possiamo anche cambiare discorso, se i discorsi che abbiamo affrontato non sono piaciuti a nessuno o a qualcuno non sono piaciuti, se ha voglia di parlare basta entrare, sollevare un argomento e risponderemo, non c'è problema. Tu cosa ne dici a tu? Io ti rispondo perché sei già da poc'anzi che stai citando, io non sono entrato, non entro, perché l'argomento che avete e che state trattando io non lo conosco. Non conosco neanche una persona di quelli che state parlando. Non è che l'argomento non mi riguarda, io sono in ascolto. Non sono persone che io non conosco, quindi cosa devo rispondere? Devo ascoltare voi e vi sto ascoltando, ma non entro perché non conosco l'argomento. Capito Giulio? Io non sto criticando a nessuno, ognuno può parlare di quello che vuole, fare quello che vuole. Io non entro perché l'argomento non mi interessa, perché non conosco i personaggi. Sì, ma ti ho detto che possiamo cambiare tranquillamente argomento, ti ho detto anche da poc'anzi, dal primo intervento che hai fatto qua, che problemi ci sono? Parliamo di quello perché abbiamo iniziato con quello, perché mi aveva parlato di un personaggio che adesso in questo momento mi sfugge inizialmente, Roberto, e abbiamo continuato su quella linea lì, per cui, ma questo non significa che dobbiamo continuare per forza su un argomento, possiamo sempre cambiare in qualsiasi momento, no, non c'è problema, anzi inizialmente abbiamo parlato addirittura di radio galene, balle varie, costruzioni dei tempi che furono, queste cose qua, ma questo non significa che non è che è obbligatorio parlare per forza di quello, se entra una persona e solleva un altro argomento, ben venga, ci mancherebbe altro, ci fa piacere anche cambiare, si parla del più e del meno e un po' di tutto, no? Non c'è problema. A proposito, il Milan cosa ha fatto? Finita la partita? Ho cambiato, perché io sono sempre da una stanza all'altra, quindi non è che sto seguendo molto, stavo vincendo, poi ho cambiato. adesso aspettiamo la Juventus, avevo già fatto tanto. O faccio l'equipo secondo me, e boh, visto che quest'anno il campionato dell'Inter e del Milan sicuramente, visto il gioco che stanno facendo, ma c'hanno due allenatori però, non vanno sicuramente a Pirlo. Vabbè, no no, continuate pure i vostri discorsi, io ti ripeto, sono in ascolto e stavo guardando la TV, poi mi sto spostando a destra, a sinistra, ma non conosco l'argomento, non conosco i personaggi perché io non frequento molto il centro storico, anzi per niente il centro storico, tutte le zone che avete detto, perciò no, non sono intervenuto per quello, se no ogni argomento è valido per fare QSO, non è quello il problema. No, c'ho altre motivazioni, non è che non sono entrato perché non voglio partecipare, perché non conosco l'argomento, quindi non mi interessa, ho detto, nel senso che non so cosa dire, ecco, tutto qua. Vabbè, continuate, tanto io sto sempre andando e tornando qua, quindi c'ho roba al fuoco, sto seguendo mia moglie, tra un po' vado a portare il cane, quindi non è che ci sia molto tempo. Riprendi Antonio, dai. Ma che apparecchio stai usando? È molto profondo come cosa. Ma per esempio il DAC stai usando, no? E come hai fatto a riconoscerlo? Boh, c'ha una particolarità, c'ha tipo... Cavolo, è particolare come modulazione, sembra una modulazione a valvole. Sto usando il DAC con MBT5, ogni tanto l'accendo. Vabbè, sono tutti accesi comunque in diversi canali, perché li tengo sempre tutti accesi, non voglio che poi si rovinano, devo solo commutare le antenne e farli andare, ma adesso ho acceso il DAC, ho acceso, è già un paio d'ore acceso, quindi ho detto rispondo con questa, come ho risposto stamattina a un messaggio, che hanno visto le mie radio, dice tutte a soprammobile, non ha giro radio a soprammobile, la radio mia sono tutte funzionanti, non ha giro soprammobile che raggi io. Comunque la valvola è proprio particolare, da quella timbrica, particolare proprio. Così è questa, già esce bene, importante che funzioni poi. Non c'è problema, dai, riprendi Giulio, io rimango in QRX comunque, non vi preoccupate, non c'è nessun problema da parte mia, intanto adesso mi preparo, si è smesso di piovere, è anche una rottura di balle con questa pioggia che non finì più, non si può uscire, non si può fare, non si può tornare, almeno fare due passi qua vicino a casa col cane, invece sta sempre piovendo, vai, non ammazzo. Riprendi, dai, sono qua comunque. Ok. D'accordo qua, sì, e beh certo, io purtroppo la giornata oggi è così, e cosa vuoi fare? E domani, a quanto sembra, il meteo ha comunicato che sarà più o meno come oggi, sempre pioggia, sempre pioggia, e domani mi interessava uscire, ma posso farne a meno e magari io rimando più in là. Se non esco domani, allora uscirò sicuramente dopo l'Epifania, perché cioè, la mia intenzione era solamente per fare quattro passi, perché volevo andare a prendere la pensione, ma se piove non vado, non ci vado nemmeno per idea, andrò dopo, non ho questa necessità di andare subito a ritirare la pensione. Già stanno bene i soldi dove sono, già me li conservano loro, per cui non c'è problema. E così è, avanti a tu, dai. Cappa. Se non te la senti non va andato male. E sempre prendi freddo. Stamattina sono uscito a prendere le paste qua da Banali. Davvero un freddo vera. Dice no, si sta più bene a casa. Purtroppo adesso tutta la settimana mi tocca fare tanta cargaranghetta tra pagliente, quasi. O forse quasi, dai. Ui. A casa ci sta molto più bene, la verità. Però il dovere mi chiama e tocca andare. E cosa posso? Ah beh, ci mancherebbe altro, io non credo che ci devi andare, se no come si fa? E lavoro serve per vivere anche, soprattutto per quello, per campare, e soprattutto per portare avanti la famiglia. Sì, noi abbiamo in comune, abbiamo Vanari, tu ce l'hai vicino lì in Corso Vico, io ce l'ho qua in via Ettore Mura. Io ho praticamente Vanari dove ho iniziato, dai, quello di Corso Vico e c'è qualche anno lì e basta, ma qui c'è proprio la pasticceria dove appunto fanno le paste e poi distribuiscono ai vari negozi. Uno di questi è quello appunto di via di Corso Vico dove sei tu. Praticamente ce l'abbiamo, Vanari ce l'abbiamo in comune, tu in Corso Vico e io in via Ettore Mura. Già le fa buone le paste, ma anche le torte non dispiacciono, solo che le torte io per abitudine e anche perché so che sono più buone, perlomeno a noi piacciono di più, le compro sempre da Secchi in Via d'Italia, per me è il numero uno, al momento Secchi è il numero uno come pasticcere, per me poi ognuno ha i suoi gusti, vai tu. Io faccio dall'altro Secchi, all'altro dolce le faccio. E ti posso dire che mi fa delle torte buonissime, mi fa. Io lo chiamo, fa, io ti posso dire l'opera d'arte che mi hanno fatto con il mio compleanno, ed è una torta veramente fatta bene. Lì la prendo. Ma andando le prendo da Muricchio che sono buonissime, però siccome ci conosciamo da tanti anni eccetera eccetera, li prendo latte dolce dall'altro Secchi, però ma fate siete tutti buoni davvero, però me. Sì, e beh certo, già lo so, vabbè, Secchi è uno dei più bravi a Sassari. E poi è uno di quelli che compra anche i materiali migliori, io lo so perché io ho servito un amico, no, che poi tra l'altro l'ho servito tante volte anche per i lavori che ho fatto, e oltre al fatto che ci conosciamo da bambini piccoli, ma proprio piccolini a livello di elementare, mi intanto per farti capire. E questo qui è commerciante di prodotti per pasticceri e per panificatori. E siccome io ho avuto molto modo di parlare con lui, anche quando gli facevo i lavori, eccetera, e lui mi raccontava sempre le persone che appunto compravano i migliori prodotti. E fra questi c'è anche Secchi e anche Vanari comprava e anche Murito comprava dei migliori prodotti, perché tanti pasticceri magari comprano dei prodotti meno costosi però un po' più scadenti, di conseguenza il prodotto che fanno non può essere all'altezza dei migliori pasticceri, tutto lì andò. Va bene, avanti, riprendi. Mi ti ho mandato la foto, dopo te la guardi nel telefonino e mi dici tu che sei una bella torta veramente, ma buona pure da mangiare, oltre che bella, buona, con un buon sapore. Ok, sì, l'ho vista, sì. Io, parlando di Molito, gli facevo gli altarini, diciamo così, dai. Cioè lui quando faceva le torte nuziali, eccetera, sai, quelli a 1, 2, 3, 4, 5 piani anche, e veniva da me, veniva e gli tagliavo, gli facevo le ruote, no? Dalla più piccola alla più grande, poi lui confezionava la torta sopra, soprattutto le torte nuziali, ma sto parlando soprattutto di Murito, non quello di Gianzo Cibi, anche quello bravissimi, ma l'altro, quello di su del via Pasubio, come si chiama, che via è quella, dopo il ponte siamo, dai, del Monte Rosello, Ponte Alto, purtroppo è morto da tanti anni, mi è dispiaciuto tantissimo, Fausto, grande amico, e io gli facevo sempre i castelli, le facevo, e lui poi faceva le torte. Incominciavo magari con un disco grande, che so io, ho anche 70-80 cm di diametro, l'altro magari un pochino più piccolo, l'altro ancora più piccolo, 3, 4, 5 piani a secondo della torta che le ordinavano, io le facevo il castello e lui poi faceva la torta. No, bravo, bravissimo pasticcere. E infatti non mi mancavano mai i dolci offerti da Fausto, buonanima. Me li portava sempre perché io gli facevo volentieri questi tagli cerchiati così, e lui allora per compensa mi ha dato, me ne regalava un vassoio di dolci. Vabbè, perché sapeva che a me piacciono e per cui me li portava sempre, così, in omaggio. Avanti a tu. Ciao, Claudio non c'è. Hai sentito che Claudio rimane in stand-by perché ha da fare un po' alla televisione, un po' deve accudire in cucina, eccetera, eccetera. Poi Claudio se ha voglia, già siamo qua, e naturalmente ben accetto. Poi si doveva preparare per portare quattro zampe a fare la passeggiatina abitudinaria, per cui non lo so, se ha voglia già siamo qua, non c'è problema. Va bene, tu le prendi. Tu conoscevi, a mio padrino conoscevi, a Corso, a Mario Corazza, via Grazia Deledda, c'è una pasticceria, Painè, tutto quanto. Sì, l'ho conosciuto, non è che abbiamo avuto molti rapporti così, ma qualche volta già abbiamo anche parlato. Sì, e non solamente con lui, anche con un altro parente, un altro Corazza, parente suo stesso, che non so se era fratello o cosa era, comunque. Già so di che stai parlando. Avanti Antu. Comunque Claudio ti ha detto che tu hai parlato insieme a lui, ti ha detto che sta preparando per uscire col cane, capito Antu? Adesso ti ho fatto la ponte io. Ah, K, non c'è problema. Ti stavo dicendo, Gianfranco parlava al baracchino un periodo a me. Gianfranco, il figlio. Anni fa sto parlando, un po' di anni fa. Quello lì era mio padrino e Sia Speranza era mia madrina, era negli anni che furono. Cavolo, ma Fasiani che sta fai ne, mamma mia quanto era buona. Lo so. Ormai in tanti, la fai in tanti a Sassari. La fanno buona, dai, la fanno, perché quello che c'era una volta a Santa Polinare, no, adesso non mi ricordo, Benito, la Vasia Buona, la fai lì, capita della Vasia Buona. Oppure quello di Veosai, il primo però, il primo, non poi il secondo né il terzo gestore, no, il primissimo, quello di Veosai, la faceva buonissima la fai lì. Infatti due magnate avevo fatto con la greffa, quando uscivamo in greffa tutti gli amici, allora tutti i giovani, tutti, aiuto andiamo a Veosai, aiuto, facevamo certe mangiate di fainì, uia. Vabbè, che furono tu, ormai sono passati troppi anni e adesso siamo più riservati. Io Benito ce l'ho qua, Io adesso se mi metto le scarpe, esco, faccio la via in fondo e so che arrivito, mi dà già due basse. Fai buona parte in chibi. Aggiungiamo anche una busta di via, il ghiaccio di via usare, paccari dai. Non era male, cioè già mi ha trattato male perché non voleva salire al piano. E poi via del COVID, ma vaffa. E allora io sono grumacco che ando a casa del cliente, vabbè. E tutte cose, però la Fainè non era un grande, infatti non l'ho chiamato mai più. Se devo prendere la Fainè, mi mongo di volte, ando in occhi, esco da questa via, giro l'angolo, vado un po' in fondo e arrivo subito. Sì, beh certo, Benito è uno dei più bravi, Benito oggi come oggi a Sassari, lo so, è uno dei più bravi per la Fainè, però non mi dimenticherò mai della gelateria genovese che c'era una volta al corso, che tu magari non hai nemmeno conosciuto perché sei troppo giovane, e lì facevano la Fainè, e lui era proprio genovese, se tu lo sai, la Fainè è nata a Genova, l'hanno inventata a Genova, e questo l'aveva portata poi a Sassari, questa attività, ma quello era, io ero ragazzo allora, lì sai, era buona veruia, ti leccavi le dita, ti leccavi, dopo che ti avevi mangiato la fetta. Va bene, dai, mi hanno telefonato che se chiamavo mio fratello al telefono. Adesso lo vado e lo chiamo, prima che si metta a cenare anche lui, perché non sta bene, vediamo un po' cosa mi dice, cosa mi racconta oggi. A tutti saluto, ti ringrazio per la chiacchierata, alle prossime, dai. Mi hanno avvisato qui a casa che ha chiamato mio fratello, se gli telefonavo. Ciao, a tu, ascolto fino a lì, dopodiché chiudo, dai. Ciao, ciao, Anto, alle prossime. Ok, ciao Giulio, ci sentiamo alle prossime. Comunque l'altra buona è lì al latte dolce, alla ruota, la fanno buonissima. Ok, dai, ci risentiamo alle prossime. Ok, ciao, ciao. Che cocciano in poco, Ecco, la senti, andiamo a volumeaccio a fare introdienti da voi. Un amico mio ha preso una fregatura del genere. Andate a provare e fare introdienti. Lo so, sono le casse buone, sono quelle che portano un poco di soldi, ce ne sono su internet, la voglia. Ce ne sono che non costano esageratamente, sono buone, però ci parliamo già di alto professional, parliamo di FBT, di roba così, stiamo parlando di roba eccezionale, stiamo parlando di roba che è garantita, non siamo va vedendo di trodio. Poi c'è quelle Gemini, non mi ero fidato a pigliarle, quelle sono un rischio. Guarda, un amico mio non andava in nuda, cioè, un trodio. Lo so. Spiegatore buono, è già un certo peso, c'ha pure. C'è il cono buono, tutto dentro. Se pigli di me pesano, un bel pesano. Perché dentro ci sono i contenuti come si deve? Ci sono. Lo so. Vabbè. Storia. Costano, costano. Purtroppo costano. Tu prendi una persona come me. Il barovizio di Bumpa. Se prendi casse che non servono, intendi di droghi. Non deve mai superare il massimo, non deve mai superare la freccia massima, deve stare come ti posso dire, meglio no, però non deve mai superare la scala massima, perché sennò non va bene. Lo so, deve avere sempre delle regolazioni giuste, altrimenti. Lo so, ce ne sono casse, tu da quanto sono tu? 300, ma 300 a virgolo. Che marca sono? Alto. Sono buone, molto le ripagate quelle. Queste qua non lo so, queste io le ho prese a seconda mano, le avevo prese da un amico mio che le ha usate poco per il locale. Comunque sono ancora con lo stile in legno. Di fare una vaina BS che sono eccezionali lo stesso, intorno ai 500 euro mixer tutto ci aveva venduto qualche anno fa, sto parlando. Non ho capito. Vabbè, prima sicuramente l'avrei provato, no? L'avrei sentito, no? Come di comprarlo, e poi ho la scatola chiusa. No, l'abbiamo provato a vedere come pompava. Già anda. Lo so, ce ne sono casse più potenti comunque. Sì, quello che sembra di dubbio. Sì. C'è la versione, queste qua, queste non le darò mai, lo sai perché? Perché sono fatte con legno pregiato, sono fatte. E lui aveva pagato molto da tre mie musica. Quindi non le darò mai per quel motivo lì. Non sono in plastica. No, sono in legno. Un legno pregiato. E infatti tu atta che ti aggancia, vedi che tu becca. Ho capito. Ce ne ha Massimo Milis, però lui ne ha cazzo due grandi, da 2000 sono, 2001. Che marca sono? JBL. Chi ci sono buoni? Chi ci sono buoni? Se ne ha pagate solo le casse 2000 euro. Cazzo, mi stai parlando di marca buona? Chi ci zoccani come la bestia zoccano? Aspetta un attimo, Anto, 5 minuti se ci sei, se mi aspetti che devo vedere quanta insulina ha, ma aspetta. Vai, vai, non ti preoccupare. Gare! Buongiorno. Ciao Tony, buonasera. Buonasera anche a te. E allora, che si dice? C'è Luca adesso, è andata a vedere la mamma perché a vedere come stava. Sì, l'ho provato mio, adesso ho visto che va bene, a metterci vicino a Casa Zagnola a farle un po' di spessore. La Casa Zagnola? Ah, beh, ancora a fare quel lavoro lì? Oh, l'ho già fatto, è andato bene. Ah, ok, ma è l'unica soluzione. Non mi si chiudava un baracchino. Capita. Deve essere mezzo difettoso quel connettore. Ma da quando l'ho comprato? Cioè, qualche cosa me l'ha fatta. E comincia a andare a farlo di più. Fa giù giughissa e andando in me. La radio c'ha 10 anni. Non è che da oggi, no. E tu che fai? Ma niente, guarda, l'ho acceso adesso perché ho cenato e quindi non riesco a guardare la televisione. E quindi, perché se mi ha sommissionatore, da quando l'ho detto io al padrone di su, è tutto bene, io vedo bene, e vaffanculo, io non vedo niente. Cazzo, mi ha rotto i coglioni, sono la frase, domani mi copro l'antenna e vuol dire che pago di manco. Se c'è un problema bisogna sostituirlo, non bisogna sostituire il miscelatore o magari lo spartitore, mica sta girando lì yo-yo, perché se lui vede è lo spartitore. No, è che è tutto sotto traccia, c'è la tela centralizzata.